Storie italiane. Pinocchio. Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio fabbricante di giocattoli di nome Geppetto. Aveva l'abitudine di fare giocattoli di legno e tutti i bambini erano affezionati ai suoi giocattoli. Geppetto ha sempre desiderato avere un figlio. Oggi voglio creare una marionetta con le fattezze di un bambino. Lo amerò come se fosse un figlio. Geppetto si addentrò nella foresta e infine trovò un piccolo tronco di pino. Ah! Questo è quello perfetto! È quello che cercavo! Geppetto prese il tronco, lo mise sulla spalla e se lo portò a casa. Mise il tronco sul tavolo e iniziò a scolpire. Con le sue abili mani, pian piano, il tronco prese forma. Scolpì per primo la testa del burattino, di seguito braccia e gambe. Geppetto finalmente terminò il suo bel burattino di legno. Oh, guarda che bel bambino che ho creato! Mi ricordi la mia infanzia, figlio mio. Io non ti venderò mai a nessuno. Ti chiamerò Pinocchio e sarai mio figlio. Si fece notte. Geppetto andò a dormire con Pinocchio accanto a lui. Geppetto cadde in un sonno profondo, era molto stanco per il duro lavoro che aveva fatto durante il giorno e improvvisamente apparve una fata. Geppetto, hai dato la felicità a molti bambini con i tuoi bellissimi giocattoli. Ti ricompenserò con un regalo speciale per il tuo lavoro svolto. La fata agitò la bacchetta magica su Pinocchio e che sorpresa! Il pupazzo prese vita e iniziò a muoversi. Si alzò in piedi e fece un inchino alla magica fata. Grazie, fata! Mi hai dato la vita! Ora posso camminare! Posso ballare! Sì, mio caro amico, Pinocchio, ora sei vivo e devi essere un bravo bambino. Ascolta sempre il tuo papà e non cacciarti nei guai. Se dai prova di essere un bambino buono, io ti darò un regalo molto speciale. Oh, davvero? Io darò sempre ascolto a mio papà. Shhh! Tuo padre sta dormendo. Non lo disturbare. Sorprendilo al mattino. La mattina seguente, appena Geppetto si svegliò, vide Pinocchio seduto accanto a lui, che lo fissava e strizzava gli occhi. Oh mio Dio! Il mio burattino è vivo! Il mio Pinocchio è vivo! Sì, papà, io sono vivo! Geppetto abbracciò Pinocchio. Non riesco a crederci! Non sono mai stato così felice! Geppetto e Pinocchio iniziarono a vivere tanti momenti felici, finché giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Papà, sono abbastanza grande per andare a scuola come tutti. Ti prego, dammi libri e matite. Certo, li avrai molto presto. Geppetto non aveva abbastanza soldi per comprare la cancelleria della scuola, quindi vendette il suo unico cappotto e diede tutti i suoi soldi a Pinocchio. Ma papà, dov'è il tuo cappotto? Oh, oggi non l'ho indossato, è troppo vecchio e strappato. Non mi piace indossarlo. Ora vai, caro figlio. Impara e rendimi orgoglioso. Grazie, papà. Ciao, ci vediamo. Pinocchio si recava a scuola e saltava dalla gioia, vedendo tutti i negozi, le persone e i luoghi del mercato sul suo cammino. Improvvisamente vide una grande folla riunita. Riuscì a farsi strada tra la folla e osservare cosa accadeva. Quello che vide fu una grande tenda colorata, un tendone da circo. Un pagliaccio si trovava in piedi all'entrata. Pinocchio stava per entrare nel tendone quando il pagliaccio lo fermò. Non si può entrare senza il biglietto! Pinocchio non ci pensò due volte e prese i soldi che suo padre gli diede. Prendi questi soldi e dammi un biglietto. Il clown gli diede il biglietto e Pinocchio entrò nella tenda con tanto entusiasmo. Un mago stava eseguendo uno spettacolo di magia. Un orso stava in piedi sul monociclo. Pinocchio rimase sbalordito. Wow! Che posto incredibile che è questo! Il padrone del circo notò Pinocchio. Oh, cos'è? Un burattino vivente! Quel burattino sarà mio e sarà la stella del mio circo! Da oggi non ho più bisogno di pagare dei burattinai per gli spettacoli! Non appena finì lo spettacolo, Pinocchio fu fermato dal padrone. Non lascerai il mio circo. Ora tu ne farai parte a vita, mio caro burattino. Lasciami andare, devo andare a scuola. Dimmi perché sei venuto qui, invece di andare a scuola. Mi dispiace, ho mentito a mio papà. Mio papà mi ha dato i soldi per i libri e io li ho usati per acquistare il biglietto. Non dovevo farlo. Per favore, lasciami andare. Beh, va e ritorna da tuo padre. E ricorda, devi essere un bravo ragazzo. Il padrone del circo gli diede 5 monete d'oro per comprare i libri. Oh, grazie! Sei così gentile e generoso! Pinocchio prese le monete e corse via felice. Mentre era sulla strada di casa, un gatto e una volpe astuta videro le monete nella mano di Pinocchio e lo fermarono. Piccolo burattino, dimmi, dove vai così di fretta? Vado in negozio per comprare libri per la scuola. Dei libri? Perché invece non compri un bel hamburger, eh? Ho un buon gelato al latte. Così lo puoi mangiare assieme a noi. Ma io non ho tutti quei soldi. Questo ragazzo sembra sciocco. Possiamo derubarlo? Certo che sì. Hai 5 monete d'oro. Le puoi piantare e far crescere un albero pieno di soldi. Oh, e questo è possibile? Sì, certamente. Vieni con me. Ti mostrerò un posto dove piantare queste monete. Pinocchio decise di seguire il gatto e la volpe. La volpe furtivamente scappò senza farsi notare. Dopo aver camminato per un po', raggiunsero una fattoria. Credo che questo sia il posto giusto. Pinocchio scavò una buca. Lasciò cadere velocemente tutte le monete nella buca e le coprì con della terra. Adesso quest'albero crescerà e potrò comprare libri e un cappotto nuovo per papà. Comprerò un hamburger e un bel gelato per tutti noi. Tu sei pazzo! Vai via! Queste sono le mie monete! Intimorito, Pinocchio fece un passo indietro e cadde in una grande fossa. Gatto! Gatto! Aiutami! Qualcuno mi aiuti! Quella era la trappola realizzata dalla volpe. Pensi ancora che io sia qui per aiutarti? Ti ho ingannato! Il gatto e la volpe presero le monete dalla buca e fuggirono. Pinocchio rimase da solo. Che cosa ho fatto? Ho creduto nelle persone sbagliate! Non ho ascoltato mio padre! Il gatto e la volpe mi hanno ingannato! Me lo merito! Tutto a un tratto apparve la fata. Cosa è successo, Pinocchio? Come hai fatto a cadere in questa fossa? Io stavo per comprare i libri di scuola e due animali furbi mi hanno buttato nel fosso e mi hanno rubato le mie monete d'oro. Appena finì di parlare, il suo naso cominciò a crescere e diventò lungo e ancora più lungo. Cosa sta succedendo al mio naso? Perché è diventato così lungo? Perché hai mentito. Il naso ti crescerà ogni volta che tu dirai una bugia. Pinocchio si vergognava a far sapere tutta la verità alla fata. Però le disse la verità e il suo naso iniziò a diventare normale. Ora che mi stai dicendo la verità, io ti libero e puoi ritornare sereno da tuo padre. La fata agitò la bacchetta magica su Pinocchio ed egli uscì dal fosso. Grazie, cara fata! Dio ti benedica. Tu sei un bravo ragazzo, ricorda di non mentire più. Pinocchio cominciò a camminare verso casa e sulla sua strada incontrò il suo amico, Romeo. Fermo, fermati, Pinocchio! Dove vai così di fretta? Dai, su, vieni con me. Io vado al paese dei balocchi. I balocchi? E dove si trova? E perché dobbiamo andare fin laggiù? È piena di giocattoli, caramelle e cioccolatini. Non ci sono i genitori che ci sgridano. Nessuno ci disturberà e giocheremo senza studiare. È fantastico! Andiamo! Pinocchio si unì al suo amico e andò al paese dei balocchi. Pinocchio e Romeo iniziarono a mangiare dolci, giocare sulle giostre e si divertirono a giocare più Rimasero nel paese dei balocchi per molti giorni. Un giorno, Pinocchio capì che avvenivano delle strane trasformazioni nel suo corpo. Aveva una coda e le orecchie grandi come quelle di un asino. Che cosa mi sta succedendo? C'è qualcosa qualcosa di sospetto in questo posto. Lungo la strada vide un uomo con due asini. Forza, più veloci! Vi venderò al mercato, poveri sciocchi! Pinocchio si rese conto che si trattava di un trucco. Il paese dei balocchi era stregato e controllato da un cattivo commerciante di asini. Attirava i bambini con dolci e giocattoli e poi li trasformava in asini vendendoli al mercato. Pinocchio fuggì da quel brutto posto più in fretta che poteva. Sentì qualche notizia mentre si trovava nel grande mercato del villaggio. Hai sentito di Geppetto? Ha cercato il figlio in tutto il villaggio, ma non è riuscito a trovarlo. E così si è diretto verso il mare per cercarlo. Sì, ho saputo che la sua barca è affondata nel mare. Che tristezza! Sentendo questo, Pinocchio si sentì molto triste e colpevole. Decise di correre in aiuto di Geppetto. Si gettò in mare senza paura di annegare. Appena Pinocchio cambiò il suo atteggiamento egoistico, tornò tutto alla normalità. Non ebbe più la coda e le orecchie lunghe. Siccome era fatto di legno, Pinocchio galleggiava. Nuotava di continuo senza sapere dove andare. E quando raggiunse il centro del mare, una grande bocca uscì dall'acqua e lo inghiottì. Era una grande balena. Oh, dove mi trovo? È tutto buio qui. Oh, papà, che cosa ho fatto? Vorrei poterti incontrare ancora una volta. Certo, figlio mio. Sono qui, vicino a te. Papà! Pinocchio! Padre e figlio si abbracciarono. Papà, mi dispiace. Ti ho mentito ed ho preso il denaro per vedere il circo. Pinocchio raccontò tutta la verità. Va bene, figlio mio. Ti perdono. Ma ora dobbiamo fuggire da qui. Ma come? Papà, ma tu hai dei fiammiferi? Sì. È da tanto che ti trovi nella pancia della balena? Sì, perché accendo il fuoco per mangiare i pesci che la balena ingoia. È da tanto tempo che vivo nella pancia della balena. Ok, va bene. Dobbiamo dar fuoco a tutta la legna che troviamo. Così il fumo raggiungerà sia la gola che il naso. Che grande idea, Pinocchio! Avrei dovuto pensarci prima. Raccolsero una grande quantità di legno e gli diedero fuoco. Le fiamme enormi e il fumo nero si scaturirono da quel focolaio. La balena iniziò a sentire una sensazione di bruciore all'interno dello stomaco. Tossì e buttò fuori Geppetto e Pinocchio. Nuotarono fino in riva al mare. Pinocchio, ci hai salvato. Io sono tuo figlio e è un mio dovere proteggerti. Sono fiero di te. In quel momento apparve la fata. Pinocchio, hai finalmente dimostrato di essere un bravo figlio. Hai salvato tuo padre. Come promesso tanto tempo fa, ti farò dono di un regalo speciale. La fata agitò la bacchetta magica su Pinocchio. Ah, ma che succede? Questa è la mia pelle. Sono diventato un bambino vero. Il mio cuore batte. Oh, fata! Mi hai dato un figlio. Grazie per la tua gentilezza. Avete fatto un ottimo lavoro. Se fate buone azioni, l'universo verserà su di voi tutta la sua benedizione. E da quel giorno, Pinocchio e Geppetto vissero felici e crearono tanti bei giocattoli per tutti i bambini.